America 24 di Mario Platero. Buongiorno a tutti, benvenuti all'America 24. Da New York, Mario Platero, attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il primo ministro greco Papandreou e il presidente Obama. Si discuterà della crisi economica greca, soprattutto della crisi dell'euro. Ci sarà anche una tappa al Fondo Monetario Internazionale. I mercati in questo momento sono in una posizione di attesa, non molto diversa da quella che hanno avuto ieri. Ieri, tra l'altro, la giornata è stata caratterizzata da un accordo tra la AIG e la MetLife. La MetLife ha rilevato la divisione Alico per 15,5 miliardi di dollari, quindi una buona notizia. Il titolo AIG è salito del 3,63%, MetLife del 5,09%. Ma parliamo della situazione greca, della situazione europea, la debolezza dell'euro. Qual è la prospettiva americana di questa crisi che dura ormai da molte settimane e che alcuni temono potrebbe estendersi ad altri paesi? Ne parliamo con Sebastian Malaby, un economista che lavora al Council on Foreign Relations, consigliere tra l'altro di alcuni dei personaggi più importanti dell'amministrazione. No, I don't think it's going to bring any solution. I mean, the key actors in the Greek drama are first of all the markets and secondly the European authorities and possibly thirdly behind the European authorities the International Monetary Fund, but I don't see the US government. Malaby non vede una soluzione dall'incontro di oggi alla Casa Bianca, ritiene che l'incontro sarà soprattutto simbolico e che il problema greco ha tre attori principali. Il primo è il mercato, e lo sottolinea. Il secondo è l'Europa, che in qualche modo deve andare avanti nella ricerca di una soluzione stabile che guardi anche oltre la Grecia. Il terzo, infine, forse con un ruolo un po' minore, è quello del Fondo Monetario Internazionale. Una delle questioni di cui si è dibattuto molto però è il ruolo dei hedge fund, quello che Malaby chiama il mercato, perché in realtà il mercato è un'operazione di hedge fund che attaccano con forti speculazioni valute deboli cercando di trarne il massimo beneficio con il minimo rischio. Malaby è un difensore del ruolo degli hedge fund e dunque gli ho chiesto che cosa pensava in particolare di queste critiche. About themselves and their own profits, and that's what they are supposed to do. The question is whether, when they trade in their own self-interest, they are doing damage to the public interest. Malaby è molto chiaro: i hedge fund non hanno come missione quella di pensare alla gente, ma di pensare a se stessi e al loro profitto. Individuano delle situazioni di fragilità del mercato e se ritengono che possa esserci una possibilità di speculazione, perché magari qualcuno sta difendendo a oltranza delle posizioni che non sono sostenibili, beh, ci saltano addosso. È il loro mestiere, è il loro lavoro e, dice di nuovo Malaby, il problema qui non è quello di avere degli hedge funds che fanno delle speculazioni o degli investimenti molto aggressivi. Il problema è che la Grecia si è indebitata al di là di quello che avrebbe dovuto. Il problema è che la Grecia è stata disonesta sulle sue posizioni debitorie e oggi sta pagando i conti, come sempre succede quando poi i nodi vengono al pettine. Non crede che Goldman Sachs abbia giocato un ruolo centrale, secondo lui è stato un ruolo periferico quello giocato dalla banca di investimento nell'aiutare la Grecia magari a nascondere alcuni dei suoi problemi, e teme però che se davvero la Grecia a un certo punto dovesse andare in default, secondo lui non siamo ancora fuori pericolo, il rischio c'è che poi il mercato si muova su altri paesi vulnerabili, la Spagna ad esempio, il Portogallo. La storia continua da molte settimane, non sarà risolta oggi nell'incontro alla Casa Bianca tra Obama e Papandreou. Una grande avventura in barca a vela sta partendo da San Francisco. Even during our manufacturing process of the plastiki. David Rothschild, inglese, 31 anni, erede della grande dinastia di banchieri. Ebbene, David ha scelto una strada diversa, ha scelto la strada della barca a vela, dell'esplorazione degli oceani, ma non in modo casuale, con una missione ambientale molto particolare. Nella descrizione che ci ha fatto ci parla del Plastiki, la sua nuova barca, Plastiki per Plastica, un catamarano eco-friendly, eco-amichevole di 20 metri. I due scafi di questo catamarano sono formati da 12.000 bottiglie di plastica riciclata. Queste bottiglie sono state riempite di biossido di carbonio e sono tenute insieme da una colla di noce di acajou. La barca è già al largo della baia di San Francisco, stanno facendo le prove, per ora tiene, sembra chiaramente molto fragile all'idea che questa barca parta per la missione, quella di andare da San Francisco a Sydney in Australia, quindi di attraversare tutto l'Oceano Pacifico. Il viaggio durerà circa 3 mesi, a bordo ci sono anche dei pannelli solari, tutto dovrebbe essere riciclabile ed ecologico. La missione è quella di una bandiera per la pulizia degli oceani. Sentiamo perché. Abbiamo lasciato molte impronte digitali nel nostro pianeta, dice The Rothschild, una di queste è straordinariamente preoccupante, è il cosiddetto spiazzo di spazzatura orientale, una enorme distesa di accumulo di plastica che si è accumulato nell'oceano per via delle correnti e che ormai è grande quanto, quasi quanto l'Europa. Fish mistake these pieces for plankton. Tutte le creature mangiano plastica, ingurgitano plastica, creature, cioè pesci, gabbiani, uccelli che vivono sull'oceano, di conseguenza le ingurgitiamo anche noi quando consumiamo del pesce. L'oceano, dice Meyer Hawthorne del programma Celebrity, l'oceano in quella zona è diventata come una gigantesca zuppa di plastica. Billion dollars worth of plastic. Thrown into landfill every year. $1 miliardo di spazzatura di plastica, tutto viene gettato, dice ancora The Rothschild, e la sua missione sarà quella di fare tappa, l'unica tappa per ora sicura prima della partenza, che dovrebbe avvenire a giorni, si augura, sarà appunto quella in questo spiazzo di spazzatura orientale, il cosiddetto Pacific Trash Vortex. Sarà lì che il plastichi si fermerà. Questa barca, devo dire, bellissima, l'abbiamo vista in dei video, l'abbiamo vista in delle fotografie, ma soprattutto in questi video in cui veleggia nella baia di San Francisco, sempre romantica, sempre bellissima. Sarà lì la sua prima grande tappa e il vento gli riempirà le vele. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla nostra canzone del giorno con cui ci lasceremo, una canzone che dedichiamo a Jimi Hendrix, il grandissimo musicista morto tragicamente nel 73, simbolo di Woodstock, torna alla ribalta. Da oggi sarà possibile ascoltare un suo nuovo disco, un disco costruito con sue canzoni inediti, si chiama Valleys of Neptune. Ancora non è stata rilasciata nessuna di queste canzoni di questo leggendario chitarrista di Seattle. In attesa di averne qualcuna da proporvi, ricordiamolo con Hey Joe. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said, where you going with that gun of your hand? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!